Quindi direi di iniziare con le presentazioni. Ai microfoni di Radio Città Fujiko siamo con Anna Maria Di Lauro, buongiorno, sono la vicepresidente dell'associazione Inno alla Gioia di Bologna. Questa associazione è in procinto di organizzare un motivo di incontro molto importante. Ci puoi dire un po' i fili conduttori, i protagonisti? Assolutamente. La rassegna Grandi Solisti, Grandi Maestri è il fiore all'occhiello della nostra associazione. È un progetto culturale a cui teniamo molto perché rispecchia fortemente quello che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi della scuola, ovvero associare grandi solisti a grandi maestri, quindi l'ascolto e l'avvicinamento alla musica di altissimo livello e l'insegnamento da parte dei solisti di questa bellissima musica. Certo, quindi è un po' un discorso di insieme con un singolo e annullare questo aspetto divisivo per renderlo comunicativo in nome della grande musica e dell'arte. Sì, insieme nel senso di far convivere i ragazzi che studiano lo strumento, che studiano musica, con invece dei grandi maestri che sono famosi a livello internazionale, in quel senso insieme. Ad esempio il concerto inaugurale della stagione, che sarà a Santa Cristina giovedì 16 aprile alle ore 20:30, vedrà come protagonista il flautista Andrea Oliva, primo flauto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in duo con il pianista e camerista Amedeo Salvato. Ci faranno ascoltare un repertorio pazzesco che spazierà da Bach a Bloch a Martin, facendo ascoltare tutte le varie sfaccettature dello strumento, il flauto, attraverso questi compositori importantissimi. I successivi appuntamenti saranno all'Oratorio San Filippo Neri, sempre alle 20:30, e saranno il 5 giugno, il 24 ottobre ed il 18 dicembre, dove avremo la possibilità di ascoltare ensemble cameristici dal duo al sestetto per archi e pianoforte, con repertori che spazieranno da Schubert a Franck, a Isaïe e Tchaïkovski. Il pubblico ovviamente eterogeneo il più possibile, in quanto l'incontro intergenerazionale per tutte e per tutti. C'è una piattaforma anche online per consultare il programma? Abbiamo una filosofia di prezzistica calmierata, proprio per rendere accessibile a più persone possibili. Sì, informazioni logistiche queste. Okay. Le definisco così, importanti. Sì, assolutamente. E i biglietti sono acquistabili su Viva Ticket. Ok, una curiosità personale che ho letto nel comunicato stampa. C'è anche la presenza di musicisti, un gruppo, un'istituzione di Chioggia, sì. Se ho capito bene. Mi puoi dire qualcosa di più, perché si può dire che è la mia seconda città? Il direttore artistico della rassegna è Dejan Bogdanovic, un violinista di fama internazionale, e siamo onorati di averlo come nostro direttore artistico, perché lui incarna davvero quello che è lo spirito della rassegna. Un grandissimo solista a livello internazionale, che però ha dedicato anche tutta la vita all'insegnamento, e per cui da grande solista costantemente è anche grande maestro, e quindi chi meglio di lui poteva rappresentarci? Lui sì, è di Chioggia, okay. No, cioè vive a Chioggia, sì, assolutamente. Ok, dai, quella è la provenienza, sì, a dispetto di un nome non esattamente. Ed è un docente della scuola di musica di Chioggia. Perfetto, primo appuntamento lo ribadiamo? Il 16 aprile alle ore 20:30 alla chiesa di Santa Cristina. Io ti ringrazio tanto e ti auguro buon festival. Permettetevi di ringraziare, se possibile, i nostri partner, appunto Musica Chioggia e Fondazione Musica Insieme, il Comune di Bologna che ci sostiene e la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Cultura per il loro patrocinio. Grazie, a presto. Grazie a voi.